la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 21 di gennaio, 16:33, primi 25 secondi, siamo in diretta da Milano, grazie a tutti coloro che ci ascoltano e ci scaricano in podcast, l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per segnalare richieste, critiche, temi e ospiti. Per vedere se volete intervenire sull'argomento del giorno, vi dico subito che parleremo di banche e imprese e famiglie, ovviamente, cioè aspettando domani, lo sapete tutti se ascoltate Radio 24, la decisione della BCE e che cosa davvero la Banca Centrale Europea deciderà di fare su questi acquisti di titoli sovrani. Intanto ricapitoliamo come stanno le cose e chiediamoci anche se poi sia davvero tutto colpa dell'euro, ecco, su questi numeri che tra poco vi farò, con un ospite di un'associazione che ieri ha avuto il merito di risciorinare un pochino tutti i numeri drammatici del calo del credito che in realtà continua nel nostro paese per famiglie e imprese. Questo è il tema, quindi se ci volete segnalare la vostra esperienza e opinione nel rapporto con le banche la puntata giusta, 800240024 numero di telefono, 349-238-6666 per gli sms. Prima di questo lasciatemi solo esprimere due considerazioni su temi non attinenti a ciò di cui parliamo in questa puntata, ma che sono temi di giornata e che mi hanno entrambi veramente fatto inalberare. Il primo è relativo alla vicenda di Roma, di cui ci siamo più volte occupati, quella degli 800 vigili assenteisti la notte di Capodanno. Bene, la novità della giornata è che alla fine su questi 800 i deferiti alla commissione disciplinare per dubbi certificati medici sono, aprite le orecchie, 6 di numero su 800. Non voglio fare i commenti che mi confliggono in testa da stamattina, ma come parla il Premier, parla il Sindaco, parla il Comandante dei Vigili dicendo la svolta, adesso basta, tutti ne risponderanno, noi facciamo le puntate per dire che le regole esistono per le sanzioni e così via, e alla fine sono 6 i deferiti per dubbi certificati medici. Ecco, rifletteteci, perché sparando le grosse ogni volta, annunciando svolte, e poi in pochi giorni tutto si riduce al tran tran quotidiano, induce semplicemente gli italiani a essere A, sfiduciati, B, a non prendere più niente sul serio, e C, mi dispiace, senza generalizzare, perché capite che non voglio generalizzare nei dipendenti pubblici, chi fa il furbo, però quella minoranza che fa il furbo o chi organizza proteste sindacali, come è stato a Roma, non in forma di protesta sindacale, ma semplicemente organizzando un astensionismo di massa, beh, riceve il messaggio che può continuare perché tutto sarà come prima. E poi però non lamentiamoci del fatto che l'Italia non si ripiglia, ecco. E la responsabilità sta in alto, sta in alto, non me la piglio solo con i vigili. Alla fine finirà che bisognerà chiedere scusa ai vigili se sono solo 6 deferiti, e capite che è veramente paradossale. Seconda vicenda, su questa trovate approfondimenti con un articolo sul Corriere della Sera e uno sul Messaggero, gli unici due quotidiani italiani a occuparsi di questa vicenda. Tra gli emendamenti alla riforma della pubblica amministrazione, sapete che all'esame del Senato c'è la delega di riforma della pubblica amministrazione dopo il decreto della scorsa estate, una delega che sarà in esame in Parlamento vista le votazioni del Capo dello Stato fino ad aprile. Ieri si sono materializzati degli emendamenti da parte del governo. Uno di questi emendamenti sarebbe la risposta del governo alle vaste episodi di corruzione che la cronaca quotidiana ci segnala ogni giorno nelle amministrazioni pubbliche. E in che cosa consiste? Consiste nel fatto che vengono esclusi dalla responsabilità per danno erariale i politici, cioè gli assessori. Sono esclusi dal danno erariale, ne rispondono solo i dirigenti della pubblica amministrazione, anzi non ne rispondono neanche i dirigenti se l'atto da loro posto in essere che configura danno erariale è stato attuato, posto in essere su indicazioni del politico, dell'assessore. Ripeto, questa sarebbe la reazione alla corruzione? Cioè escludere i politici e i dirigenti all'ordine dei politici dalle azioni di danno erariale che la Corte dei Conti, a nome della comunità di noi tutti i contribuenti, fa nei confronti di chi pone in esse delibere o decisioni pubbliche per amici degli amici che configurano un danno erariale? Ecco, riflettete anche su questa seconda cosa. Io mi aspettavo una levata di scudi dei giornali. Ne parlano solo due, con articoli di cronaca, e grazie ai colleghi che lo hanno fatto. Paginate intere sulle cose per il nome del capo dello Stato. La mia opinione è che se la politica intanto circoscrive la responsabilità dei politici e dei dirigenti pubblici che colludono con gli amici degli amici, beh, allora per conto mio eleggessero Al Capone, al Quirinale, perché questo è il segnale che arriva alla gente che si spacca la schiena tutti i giorni. E non gli dite che si tratta di un errore o di una svista, perché queste sono norme che vengono ben ponderate e che a me fanno orrore. Chiusa anche questa seconda parentesi, andiamo ai numeri del sistema bancario nei confronti delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese italiane, perché naturalmente sapete che le grandi imprese hanno condizioni di favore da parte delle banche. Io vi butto solo tre numeri e poi passiamo al nostro ospite che spiega molto meglio. Allora, se facciamo un paragone tra il totale degli impieghi, cioè dei prestiti del complesso del sistema del credito del nostro paese alle famiglie e alle imprese, abbiamo un primo dato su cui riflettere molto, senza andare troppo a ritroso. Se solo ci fermiamo a tre anni fa, tre anni, cioè dal 2011 al 2014, il totale degli impieghi, dei prestiti del sistema alle famiglie e alle imprese italiane è diminuito come stock, come variazione assoluta, di 129 miliardi. Primo dato. Da mesi leggete sui giornali, le banche ci tengono molto a dire no, ma il tasso di riduzione dei prestiti sta scendendo. Insomma, abbiamo perso 129 miliardi a famiglie e a imprese che nel frattempo vedevano falcidiato il loro reddito, il loro margine per le imprese, erano indebolite nel patrimonio. Le famiglie hanno perso 814 miliardi di valore della loro ricchezza netta, un decimo del totale della loro ricchezza netta, e due terzi di questo lo hanno perso per effetto degli aumenti fiscali sul patrimonio immobiliare, che rappresenta i due terzi del valore della ricchezza netta degli italiani, e a questo si sono aggiunti 129 miliardi di crediti in meno dalle banche. Poi, seconda cosa, qual è il tasso nominale medio alla piccola e media impresa italiana fino a 2014 per prestiti fino a 1 milione di euro? In Italia è il 3,5%, in Francia è il 2,1%. Vogliamo dire che è colpa dell'euro o c'è un problema nel sistema bancario italiano? Io propendo per questa seconda cosa. Ancora, qual è il tasso di interesse sullo scoperto di conto corrente a una piccola impresa italiana fino a 125.000 euro? Il 10,6%. Noi siamo a tassi di interesse bassissimi, record nella storia per quanto sono bassi, però le banche italiane hanno un tasso di interesse sullo scoperto di conto corrente fino a 125.000 euro del 10,6%, sempre ai piccoli, non ai grandi, grandi hanno molto meno, e anche qui è colpa dell'euro o c'è qualcosa che non funziona in questo sistema bancario che continuano a dipingerci come il più sano del mondo e poi non lo è affatto? Ecco, questi tre numeri, ma riflettiamo su tutto il resto con il vicepresidente dell'associazione che ieri ha tirato fuori un rapporto molto più dettagliato che trovate sul sito dell'associazione. L'associazione è Confcommercio ed è con noi il vicepresidente di Confcommercio che ha proprio la delega per il credito, Pietro Agen. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei, dottore, buon pomeriggio. Allora, io ho citato solo questi tre dati, però vorrei che lei approfondisse ulteriormente. Allora, lei è stato perfetto, però quello che vorrei far rilevare è che i dati che lei ha dato sono dati medi. Certo. Quindi in realtà quando parliamo del 10,6 per le aziende scoperte fino a 125.000 euro, noi parliamo di potenziali sbalzi che arrivano anche a 15. Già. E poi se teniamo conto che la differenza fra gli scoperti fino a 125.000 euro e 1 milione di euro non è così grande, perché fino a 1 milione di euro abbiamo una media del 9,02. Vediamo che non sono solo le piccolissime aziende, ma anche le piccole medie a pagare dei tassi che sono, scusate il termine, assurdi. Eh sì. Se poi ci aggiungiamo lei non può dirlo, per me rispetto alla struttura dei tassi ufficiali siamo a tassi negativi praticamente, sono tassi da rapina questi su. Sono tassi che di fatto impediscono lo sviluppo e alcune cose ce lo fanno capire quando andiamo a esaminare un altro dato clamoroso. Il calo dei finanziamenti è incredibile, ma il calo della domanda è altrettanto incredibile. Se noi pensiamo che dal 2009 a oggi le aziende che chiedono credito sono scese dal 34% al 16%, beh, è impressionante. Possiamo dire che nell'ultimo anno va un po' meno peggio, se vogliamo essere ottimisti. Sì, ma il calo è clamoroso, ecco, comunque. Eravamo al 10,8, siamo risaliti al 16, ma siamo esattamente alla metà. Se poi teniamo conto che di questa metà prima ne veniva accolto il 64%, oggi il 29%, arriviamo al dato finale che oggi solo 4-8% delle aziende ricevono finanziamenti. 4 anni fa erano il 22%. Il 4,8%? 4,8% e siamo arrivati a una punta minima del 2,6 4 trimestri fa. Lei capisce perché non c'è lo sviluppo? No, lo capisco, però vorrei ripeterlo a chi ci ascolta. Pensate che... vi ripetono che abbiamo il sistema bancario che ha avuto bisogno meno di tutti quelli dei paesi avanzati interventi pubblici, tranne che per MPS, poi tranne il fatto che MPS e Carige continuano a non reggersi in piedi, eccetera, eccetera. Ma il problema è che a oggi neanche 5 imprese su 100 ottengono credito. 5 su 100, non so se vi è chiaro. Sono dati ufficiali. Tenga anche conto che nel 2013 di fatto il credito si era fermato, eravamo praticamente vicini allo zero, oggi una piccola ripresa, ma siamo sempre su numeri che sono visibili. Se ci aggiungiamo che è calato fortemente il credito alle famiglie e sappiamo che importanza hanno i consumi interni rispetto alla ripresa anche del PIL, e ci rendiamo conto che da una parte non si finanziano le imprese che non possono crescere, dall'altra non si finanziano i consumi, il combinato disposto è la recessione, oppure chiamiamola stagnazione, come più gradito, ecco. Vabbè, insomma, con 9 punti di PIL persi e un quarto della produzione industriale, chiamiamola pure recessione, perché non sarà lo 0,1. Anche stagnazione è una stagnazione dopo la recessione. Esattamente. Allora, a questo naturalmente mi tocca l'obbligo, siamo anche alla radio di Confindustria, ma mi tocca l'obbligo come giornalista dire che naturalmente le banche replicano che il più del credito che manca soprattutto per il calo della domanda da parte delle imprese, che naturalmente vedono la domanda interna debolissima, vedono le tasse che aumentano e quindi investono sempre meno e chiedono sempre meno denaro, e dall'altra parte dicono poi noi abbiamo i ratios patrimoniali più elevati, ancora più elevati in prospettiva, che ci sono posti da Basilea 3 e dalla BCE, abbiamo il monte di sofferenze che è esploso fino a 180 miliardi e che quindi impegna fette crescenti di capitale, abbiamo dovuto comprare un mucchio di titoli del debito pubblico per dare una mano allo Stato e anche questo impegna capitale, non possiamo ridurre nel frattempo più di tanto rapidamente i nostri costi fissi, cioè buttare fuori la gente, in altre parole, e ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che i bancari sono senza contratto da un bel po' e il sistema bancario dice e resterete senza nuovo contratto per un bel po', perché allo stato delle cose la cosa è così e ne dipende dai bancari, se le imprese bancarie italiane negli anni precedenti pre-crisi hanno continuato a crescere di agenzie e dipendenti, perché non erano certo i bancari a prendere queste decisioni, però il sistema bancario si difende in questo modo. A questo punto abbiamo 60 secondi di informazioni sulle strade e poi chiederemo a Pietro Agen se a fronte di queste repliche del sistema bancario, rispetto a queste anomalie fortissime rispetto agli altri paesi dell'euroarea, perché voi capite che tassi di interesse praticati sui prestiti che sono doppi di quelli francesi e tassi sullo scoperto da rapina, qui il problema vuol dire che è a casa nostra. Allora, che cosa si può ragionevolmente fare in attesa che Draghi, come sempre, domani faccia un altro miracolo, vedremo come, tra 60 secondi, intanto strada. La versione di Oscar. Poi tornate in diretta a 16:48 a parlare di sistema bancario, sistema dell'impresa e delle famiglie nel nostro paese. Abbiamo riepilogato un po' delle cifre di questo riepilogo drammatico della diminuzione dello stock di prestiti e delle condizioni iper aggravate ai clienti italiani dalle banche nel nostro paese rispetto a quelle degli altri paesi dell'euroarea. Arrivano un mucchio di sms, ne leggo solo qualcuno. C'era c'era un nostro ascoltatore che parla di un fido per un bar preso dalla moglie con interesse superiore al 15%, eccolo qua, fido di 10.000 euro al tasso dell'oltre 15% più spese. C'è anche chi fa osservazioni, Marco per esempio, sul fatto che le imprese italiane sono molto più a rischio delle aziende degli altri paesi, e questo quindi giustificherebbe le molle, per così dire, delle banche italiane nei confronti delle imprese italiane. Sentiamo rapidamente, prima di tornare dal vicepresidente del Confcommercio, anche alcuni di voi che hanno telefonato. Cominciamo con Maria Luisa da Roma. Prego Maria Luisa. Buongiorno Sassanini, scusi, mi permettevo solo di dire che è apparso questo, questa intervista di Marco Panara su Affari Finanza del lunedì, e in prima pagina c'è proprio l'amministratore delegato Caro Messina della San Paolo, dell'Intesa San Paolo, dove a fronte di quello che voi dicevate, a parte gli stress test eccetera, loro si ritrovano con troppi soldi, e quindi si ritrovano intanto nella lista delle grandi banche, sono le prime, prima ancora della China Bank, di tutta una cosa micidiale, siamo i primi nel mondo con Intesa San Paolo, e lui dice che ha 14 miliardi dove non vuole investire certo né nel Carige né in altre, diciamo, rottamate banche, e quindi restituirà, ha in mente di restituire queste cose agli azionisti. Ora io non sono un azionista, sono solo una piccolissima loro cliente da sempre, però mi chiedo come mai c'è questa difficoltà, quindi, anche se lui dice aumentiamo il credito da Intesa per 35 miliardi nel 2015, anche lui si lamentava del fatto che in fondo non c'è molto più gente che chiede crediti a parte dell'impresa, e voi lo stavate dicendo prima. Però per quanto riguarda noi privati, cosa ci possiamo chiedere? Cioè, voglio dire, una banca grandissima, la prima del mondo per, diciamo, consistenza patrimoniale, penso, e poi quando andiamo a chiedere piccole cose, notare che non è una banca normale, è una banca che deriva dal non voglio tenere cosa, ma insomma deriva dalla Compagnia di San Paolo, che è nata come banca in aiuto delle persone più deboli in Torino. Quindi voglio dire, stiamo trasformando questa banca, e lui diceva che si butta, cioè dove si butterà? Noi ci butteremo sul private banking, è chiaro, nei grandi patrimoni. Allora lei pone un mucchio di problemi, cioè non è che deriva, in realtà Banca Intesa è figlia di molte aggregazioni bancarie, e quello era uno dei soci all'origine nato, come tutte le fondazioni bancarie, dalla trasformazione delle casse di risparmio con la riforma Amato. Detto tutto questo, è verissimo quello che lei richiama. Pochissime sono le banche iperpatrimonializzate, come è diventata Intesa, che ha dovuto ripatrimonializzare per rischi a cui era esposto. Il motivo per cui preferisce restituire il capitale o darlo come dividendo agli azionisti, al di là del fatto che glielo chiedono le fondazioni che hanno avuto i soldi tagliati dallo Stato, questo è il vero motivo per cui io non voglio le fondazioni azioniste nel sistema bancario, è che ovviamente le banche oggi guardano molto agli impieghi e quindi ai loro asset pesati per il rischio, e ormai si concentrano solo su un rischio bassissimo. Questo è per il motivo, tra l'altro, per cui privilegiano i titoli di Stato, cioè vengono meno al loro mestiere, perché il loro mestiere è non so valutarlo molto bene il rischio è elevato perché le cose vanno male in Italia, e quindi io taglio le imprese e le famiglie. Questo è il punto di fondo. Sentiamo ancora Alessandro dalla provincia di Lecco. Prego Alessandro. Eccomi qua, volevo chiedere se per lei è normale che un pensionato che ha chiesto un quinto della pensione, sì, gli applicano il 10,86% di interesse. 10,86%? Sì. Ma posso farle una domanda, Alessandro? Ha chiesto, cioè quando ha fatto la scelta dell'intermediario a cui rivolgersi, ha fatto una serie di analisi sulle offerte comparate? Sì, sono andato in tutte le banche, guarda caso c'era uno 0,50 di differenza da una con l'altra. La mia risposta è no, capito? Ecco, questa è un'altra dimostrazione di come il nostro sistema bancario vada avanti con non dichiarati, e anche difficili da accertare, accordi di cartello, con condizioni di aggravio, secondo me, in questo caso. Si tratta di un cessione di un quinto della pensione, quindi stiamo parlando rischio zero praticamente. Ecco, quel tasso, a mio giudizio, è del tutto spropositato rispetto al rischio preso dalla banca su una pensione, quindi non stiamo parlando di un reddito fluttuante, e rispetto alla struttura dei tassi ufficiali. Claudio, dalla provincia di Como, prego. Sì, buonasera. Io intervenivo sul discorso è scomparsa la commissione di massimo scoperto, sì, ma è stata introdotta esatto. La commissione veloce di fido, esatto. Nel senso che se io sconfino per valuta dal massimale del fido, automaticamente ogni sconfino mi costa 25-30 euro a seconda delle banche. Esatto. Altro bel esempio di come sono aggirate le norme in teoria assunte a tutela dei imprenditori, cioè delle famiglie e delle imprese nel nostro paese. Torniamo a Pietro Agen. Voi avete anche, oltre ad aver riepilogato i dati di questo dramma, avanzato delle proposte. Vediamo un po' cosa secondo voi realisticamente si potrebbe fare. Ma innanzitutto, ecco, proprio collegandomi all'ultima telefonata, noi abbiamo detto che è necessario reintervenire sugli oneri aggiuntivi, perché non solo è stato inserito il famigerato CIV, ma la commissione di massimo scoperto è stata sostituita da una cosa ben peggiore, la commissione di disponibilità, esatto, che in caso di basso utilizzo delle disponibilità di scopertura arriva a cifre incredibili, cioè possiamo arrivare anche al 20-25% se si fanno conti esatti. Se io ho un'autorizzazione a scopertura di 100.000 euro, ne utilizzo solo 10, ma io la commissione li pago su 100. Già. Quindi è molto peggio di prima. In questo caso il tasso automaticamente è del 10 oltre a quello di cui pago l'interesse, oltre a quello dell'interesse. Quindi è drammatico. Qui bisognerà intervenire una volta per tutte per stabilire che la banca gli oneri aggiuntivi li deve correlare a quello che è il suo reale costo, non può inventarsi delle formule generiche di questo tipo. Mi interessa solo sapere una cosa, ma lei si aspetta che domani Draghi fa il miracolo anche di queste cose qua, o queste cose qua sono italiane e ci dobbiamo vedere? No, queste cose sono tutte italiane, con grande franchezza. Draghi deve fare un'altra cosa, deve in qualche modo vincolare l'intervento europeo, che bene o male c'è stato, all'utilizzo delle banche, perché i fondi europei, le banche hanno fatto operazioni di tipo finanziario, esatto, che poi abbiano aiutato lo Stato, però insomma, di sicuro, però non per le imprese e le famiglie come si vede nel nostro paese. Però attenti, ci sono un fracco di problemi italiani. Continuate a guardare 24, grazie a Pietro Agen, appuntamento come a domani.